salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi diciamo che il focus è su due musicisti quasi della stessa età, più o meno, hanno già passato comunque i 60. Sono due musicisti importanti, si tratta di Wayne Horwitz e di Bill Frisell, che hanno peraltro anche condiviso una visione della musica e di quello che era l'intenzione proprio della loro musica, cioè riferirsi più che al jazz alla musica americana tout court. Nei loro lavori si ascoltano gli echi di un po' di tutta la musica americana del Novecento. E sono carriere parallele, iniziano peraltro con frequentazioni reciproche frequenti, come ad esempio l'esperienza anche con i Naked City di John Zorn, ma poi anche nel gruppo The President, il precedente gruppo, intorno agli inizi degli anni Ottanta. Insieme tra l'altro a molti altri musicisti. Adesso l'occasione per questo focus, diciamo, sono due lavori usciti, uno da parte di Horwitz, l'altro da parte di Bill Frisell, a pochi mesi di distanza uno dall'altro. Però la memoria, così, anche il fatto di aver trovato finalmente un disco che cercavo da tempo, di un vecchio lavoro, un lavoro uscito nell'87 ed era The President, appunto, che poi darà anche il nome al gruppo di Horwitz. Però questo è il primo disco che ha fatto con questa formazione e con questo progetto. E peraltro la compagnia è decisamente ricca, perché oltre alla chitarra di Bill Frisell si aggiunge anche un'altra chitarra, quella di Elliot Sharp, che poi prenderà strade diverse, diventando anche lui uno dei protagonisti della scena della downtown newyorkese, ma non solo. E poi Bobby Previte alla batteria, anche lui avrà una lunga stagione molto attiva e molto presente sulla scena musicale, tuttora è uno dei protagonisti. Poi Doug Wieselman alle anse, Dave Hofstra alla tuba, che questo è un musicista che come tuba, per il suo strumento, diciamo che è spesso presente con queste formazioni. Poi in alcuni momenti si aggiunge anche alla voce la moglie di Wayne Horwitz, che è la Alcombe. Ecco, è un disco che è una sorta di manifesto, perché presenta un po' tutto lo spirito della musica di Horwitz. Si ascolta molto bene, si distingue molto bene la chitarra di Frisell rispetto a quella di Elliot Sharp. Sono stili che sono poi rimasti nel tempo, uno più legato, diciamo, a una visione melodica anche quasi onirica e di recupero della cultura country, l'altro invece più legato alla storia del rock e anche a certe esasperazioni della storia del rock, fino a sfociare nella musica contemporanea. Ecco, sono carriere parallele che comunque ancora adesso rimangono coerenti un po' al loro disegno. Wayne Horwitz da un lato più teorico, più didattico, più legato anche alla musica minimale, a questa visione più intellettuale, diciamo, della lettura musicale. E Bill Frisell invece ormai è molto legato anche alla musica country, alla musica leggera, a riletture comunque della musica americana più semplice, suonata nel modo migliore, più perfetto, diciamo, da un punto di vista formale. Ascoltiamo alcuni brani presi da questo straordinario disco, a mio avviso, dell'87, intitolato The President, e appunto possiamo goderceli intanto. Thank you. Questo era un disco, uno dei primi progetti di Wayne Horwitz, The President, appunto, che vede la collaborazione con, tra gli altri, anche con Bill Frisell. Sono due musicisti che, dicevo, prendono appunto questa semplicità. Sicuramente quello che abbiamo ascoltato è stato, insieme alle esperienze dei Long Lizard e poi successivamente anche dei Jazz Passengers, sono stati in sostanza musicisti che hanno creato, gruppi di musicisti che hanno creato uno stile più newyorkese probabilmente, ma però che ha determinato poi un'alternativa a quello che era stato lo sviluppo dell'attenzione verso il rock e verso le musiche più di consumo. Sicuramente da questa musica manca totalmente il funky, cosa che invece in quegli anni era molto più presente, o perlomeno era privilegiato da chi cercava queste strade. Qui probabilmente l'esperienza pop viene dal punk e poi si sviluppa appunto con questa apparente semplicità. Negli anni poi questa apparente semplicità, unita anche al minimalismo e a altre forme, musica elettronica per esempio, che è quella che insegna peraltro Wayne Horwitz all'università, al conservatorio di Seattle. Ecco, anche la scelta abitativa di trasferirsi da New York a Seattle, sia da parte di Horwitz che di Bill Frisell, è una scelta interessante, perché vuol dire spostarsi dall'altra parte del continente americano e appunto vivere una sorta di vita di provincia, una vita di provincia molto, molto, diciamo, di lusso, diciamo, nell'ambito di quella che può essere la qualità della vita, il rapporto con la natura. Queste sono tutte voci che si ascoltano appunto anche in questa musica. L'ultimo, cioè recentemente, è uscito un lavoro, un altro, diciamo l'ultima cosa pubblicata da Wayne Horwitz per l'etichetta Songline, etichetta che ormai da molto tempo accompagna la produzione di Wayne Horwitz. E una formazione più o meno cameristica, come spesso avviene anche nelle proposte di Horwitz. Si ascolta alle tastiere Wayne Horwitz, naturalmente, e poi Ron Miles alla cornetta, decisamente molto presente, molto caratterizzante. Bravo Ron Miles nel dare un colore morbido alle musiche che affronta. Poi Peggy Lee al violoncello, Timothy Young alla chitarra, anche questi sono collaboratori da lungo tempo di Horwitz. Poi Sarah Schimbeck al fagotto, e poi Eric Hegel alla batteria e Kate Lowe al contrabbasso. Una musica cameristica, anche questa conferma, non c'è molta distanza poi tra quello che è la musica che abbiamo ascoltato e questa che propone come nuova elaborazione Wayne Horwitz. Questo era il gruppo di Wayne Orvis nell'ultimo lavoro intitolato Some Places Are Forever Afternoon. È un disco uscito per la Songline recentemente, che è appunto questo gruppo cameristico che rappresenta, a mio avviso, piuttosto bene quello che è il mondo musicale di Orvis. Come peraltro anche quest'ultimo lavoro di Bill Frisell. Frisell ha pubblicato nelle ultime settimane un disco dedicato a musica da film, dove si ascolta molto Morricone, tutti i western, cioè tutti no, ma insomma diverse, ma anche Bernard Herrmann con Psycho, oppure anche Dimitri Tryonkin. Insomma, sono molti autori che fanno parte appunto del gota, della musica per film, che vengono rivisti con questo modo naif, molto semplificato, ma estremamente elegante, estremamente raffinato, sempre da parte di Bill Frisell. È una musica di confine, non si sa se si può parlare ancora di qualche contaminazione jazz, diventa difficile riuscire a immaginarla. È una musica americana, tout court. È anche una formazione interessante perché, oltre naturalmente a Frisell alla chitarra, Edwin Kang alla viola, curioso musicista questo che si muove sia tra la musica pop e la musica d'avanguardia, la musica contemporanea. Poi Rudy Royston alla batteria e Thomas Morgan, che ormai direi che sono più le performance alle quali partecipa che quelle alle quali è assente. È un bassista di alto livello e sicuramente affidabile. E ancora una volta appunto gli viene affidata una parte in questo disco, e si aggiunge un'altra nota interessante, Petra Aden, una cantante, ed è una figlia d'arte, la figlia di Charlie Aden, e appunto il modo di cantare, la sua vocalità e anche la sua interpretazione fanno parte della musica pop, della musica, diciamo, di una certa musica di musica leggera americana che può andare bene un po' per tutte le stagioni. E questo non toglie che in diversi momenti il disco raggiunga un pathos e un livello qualitativo molto elevati. Ascoltiamo un paio di brani. Il brano di apertura, che richiama sicuramente queste atmosfere country, questi spazi lunghi, questi panorami sterminati, e poi un pezzo di Morricone che è interpretato decisamente in modo interessante. Era Bill Frisell, ben riconoscibile peraltro, in quest'ultimo lavoro dedicato alle musiche da film, When You Wish Upon a Star, disco uscito anche questo per l'etichetta OK, anche questo nel senso che anche diversi altri di Frisell sono per questa etichetta, e appunto dà uno spaccato piuttosto ben riuscito di quello che è, di quella che è la logica nel bene e nel male di Bill Frisell. Un giudizio rimane abbastanza sospeso, si fa fatica anche a definirlo, perché la qualità è estremamente elevata e il, come dire, il senso di tutto questo lascia abbastanza perplessi. E viene in mente in un'intervista, quello che diceva Paul Bley rispetto a quello che stava facendo Frisell, questa sua piega country, e che era piuttosto demoralizzato Paul Bley, dicendo ma lui non si rende conto di essere Bill Frisell, è un bravo chitarrista ma fa benissimo anche queste musiche country, ma non si rende conto che lui è Bill Frisell. E questo rimane una, come dire, una riflessione, quello che potrebbe essere, oppure se invece ci si sbaglia ed è proprio questo quello che vuole essere Frisell. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi, e vi ricordo che l'intera trasmissione e anche tutti i riferimenti discografici li potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it, alla sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.